La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 14 novembre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. In occasione della chiusura della conferenza sull'ambiente di Barcellona e aspettando il prossimo summit di Copenaghen, vogliamo parlare di clima, ambiente e cambiamenti climatici. E lo faremo insieme al professor Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. Buongiorno professor Mercalli. Buongiorno a voi. Professor Mercalli, all'inizio noi abbiamo le 100 parole iniziali per introdurre la puntata. E quindi se le chiedessi cosa significa la parola ambiente, lei cosa mi risponderebbe? La parola ambiente vuol dire semplicemente il luogo nel quale viviamo, il luogo dal quale dipendiamo. Non è una moda, non è qualcosa di nuovo, è semplicemente il luogo che ci circonda, inteso come luogo dove avvengono degli scambi di energia, dal sole e poi con tutte le altre forme di vita, acqua, aria, suolo. Il luogo dove attingiamo le risorse per sopravvivere e anche quelle per stare bene, anche quelle per divertirci, anche le risorse, se vogliamo, spirituali, attingiamo alla bellezza, attingiamo alla curiosità. Ecco, quindi tutto questo è l'ambiente. Benissimo, professor Mercalli, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e quindi parleremo, come abbiamo titolato sul blog, di ambiente e dintorni. On my shoulder, and I'll try to hold you tighter so you can cry on my shoulder, and we'll lie together closer. We will. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, in questa puntata in cui stiamo parlando di riscaldamento globale. E ne stiamo parlando col professor Luca Mercalli della Società Meteorologica Italiana. Life depends on the warmth of the sun being trapped by a layer of gases that surround the Earth. We now produce so much of these heat-trapping gases that the layer is getting thicker, heating the world, changing our climate and threatening our way of life. Quello che ci stiamo ascoltando è l'estratto audio di uno spot sul riscaldamento globale andato in onda qualche mese fa in Inghilterra. Ma professor Mercalli, la prima domanda è questa: come sta realmente la Terra? La Terra sta bene, di fatto la Terra segue un suo viaggio di miliardi di anni, quindi non è che si curi troppo delle cose che diventano importanti invece per l'uomo. La Terra è passata attraverso cambiamenti enormi nel suo ambiente. Miliardi di anni fa non c'era nemmeno la vita, poi è arrivata la vita, la temperatura è salita, è scesa, ci sono state glaciazioni, i continenti si sono spostati, i mari si sono aperti, si sono richiusi, montagne si sono sollevate, sono successe delle cose veramente che hanno dell'incredibile, che pian piano la geologia, la paleoclimatologia, la paleobiologia, tutte le scienze che indagano nella ricostruzione del nostro passato ci stanno in qualche modo rivelando. Se però guardiamo la Terra oggi nei confronti delle condizioni che permettono all'uomo e anche a tutte le forme di vita dalle quali pure noi dipendiamo di stare bene, così come siamo abituati a constatarlo nel corso della nostra breve esistenza, allora possiamo dire che le cose non vanno troppo bene. Abbiamo introdotto delle variabili nuove all'interno del sistema ambientale e questi nuovi elementi non sono tutti graditi all'ecosistema così come si era sviluppato ed evoluto nel corso dei milioni di anni. Senta professor Mercalli, uno dei tanti assunti è che l'aumento di anidride carbonica sia responsabile del cosiddetto riscaldamento globale. Ma come facciamo a sapere che i livelli di anidride carbonica erano più bassi nel passato rispetto a oggi? Da cosa lo sappiamo? Le prime misure di CO2 nell'atmosfera, misure dettagliate e sicure, risalgono al 1958, sono state condotte da un paio di scienziati americani di grandissimo calibro, come Richard Revell e Charles Keeling, sull'osservatorio che fu impiantato per l'occasione sul monte Mauna Loa nelle isole Hawaii. Da lì si è già visto che la concentrazione di CO2 è andata crescendo. Nel 1958 era di 310 parti per milione, oggi siamo attorno alle 390. È chiaro che però soltanto una cinquantina d'anni erano troppo pochi per riuscire ad avere un quadro esaustivo di che cosa è successo sui lunghissimi periodi della storia del clima. In aiuto ci sono venuti i ghiacci polari, prima quelli della Groenlandia e poi quelli dell'Antartide. Siamo in presenza di calotte glaciali dello spessore di alcune migliaia di metri, e sfiorano i 4.000 metri in Antartide. Questo è ghiaccio molto antico, all'interno del ghiaccio ci sono delle bollicine d'aria fossile, cioè aria che è rimasta imprigionata tra i fiocchi di neve nel momento in cui questi cadevano, quindi parliamo di neve, di nevicate antiche. Ebbene, estraendo delle carote di questo ghiaccio, cioè dei cilindri lunghi nel caso della carota epica, quella del progetto europeo ultimamente concluso proprio in Antartide, profonda 3.250 metri circa, si è ricostruita la composizione chimica dell'atmosfera e quindi anche la concentrazione di CO2 negli ultimi 800.000 anni. Ebbene, guardando questo grafico si scoprono due cose. La prima è che effettivamente la quantità di CO2 nell'aria non è mai stata così elevata come oggi nell'ultimo milione di anni praticamente, quindi i valori massimi erano attorno a 300 parti per milione contro le 390 parti per milione recentissime. Si vede proprio che il grafico conquista tutto questo nuovo record negli ultimi 60-70 anni, a partire dai primi anni del Novecento. quando ancora la concentrazione era attorno a 290-300 parti per milione. Il secondo elemento importante che emerge da questa analisi è che la temperatura terrestre è legata all'andamento della CO2, che non è il solo fattore che controlla il clima del pianeta, ma è uno dei tanti fattori. Quindi lo potremmo definire una sorta di interruttore del clima terrestre. Quindi quando c'è molta CO2 la temperatura tende a crescere, quando ce n'è poca tende invece a scendere, quindi a fare più freddo. Sono tanti meccanismi che possono innescare un cambiamento climatico sulla Terra. In passato dominavano i meccanismi di tipo astronomico, quindi soprattutto quelli innescati dalla posizione della Terra rispetto al Sole, quindi la quantità di energia solare ricevuta dalle diverse masse continentali, e poi si inseriva la CO2. Oggi invece è la CO2 l'elemento di innesco di un cambiamento climatico, nella fattispecie l'aumento della temperatura che negli ultimi 25 anni sta mostrando la vera faccia, insomma, del riscaldamento globale già teorizzato oltre 100 anni fa da Svante Arrhenius, premio Nobel per la chimica del svedese. Professore, sappiamo che uno dei tanti modi, oltre all'analisi sul campo, per studiare le variazioni di CO2 e le variazioni di temperatura, siano i cosiddetti modelli matematici realizzati però ad hoc. Però esiste un solo modello matematico per tutta la Terra o esiste la necessità di creare più modelli matematici per diverse zone del nostro pianeta? I modelli climatici sono derivati dai modelli per la previsione meteorologica, cioè i modelli di circolazione generale dell'atmosfera. Si usa quindi simulare il comportamento del clima terrestre sull'intero globo. Non ci sono dei modelli locali che vengono usati per la previsione meteorologica a breve termine, ma quando si parla invece di clima si usa un modello globale. Ce n'è ovviamente più di uno, molti istituti di ricerca, a partire dal 1967, data nella quale fu realizzato il primo modello climatico a Princeton dal geofisico Sicuro Manabe di origine giapponese, si sono sviluppate decine e decine di nuovi modelli. Oggi ne operano circa una ventina in vari enti di ricerca del mondo e questi modelli non fanno altro che ricostruire in base alle leggi fisiche di funzionamento non solo dell'atmosfera ma anche degli oceani, della stessa biosfera, quindi gli scambi di gas a effetto serra all'interno del mondo vivente, dei microrganismi, dei vegetali, degli animali, si cerca di ricostruire l'evoluzione del clima, ma per far questo prima di tutto si ricostruisce il passato. La ricostruzione del clima del passato da parte dei modelli è una sorta di test, da un lato di apprendimento, di verifica, perché ci permette di capire come è variato il clima del passato, di svelare una serie di meccanismi che poi vengono riapplicati nel modello per il futuro. E dall'altro è anche una verifica che il modello funzioni. Se un modello è in grado di ricostruire correttamente il clima del passato per il quale abbiamo dei dati di verifica, allora si ritiene che il modello sia anche in grado di simulare con una margine di affidabilità sufficiente per gli usi pratici anche il futuro. Professor Mercalli, a questo punto ci lasciamo per un attimo, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale e poi continueremo a parlare di cambiamenti climatici, centrando la nostra attenzione soprattutto sul prossimo convegno di Copenaghen. Country, and they're another I'd like to dance. You may be the heaviest champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to sell somebody. Yes, you're gonna have to sell somebody. E bentornati in studio, cari ascoltatori, in questa puntata in cui stiamo provando a parlare di cambiamenti climatici insieme al professor Luca Mercalli. Senta professore, fra poco meno di un mese sarà avviata la cosiddetta conferenza di Copenaghen. Ce la può introdurre un attimo? Chi parteciperà? Parteciperanno tutti? Parteciperà solo una piccola parte del mondo? E soprattutto che cosa ci si aspetta da questa conferenza? È in realtà una conferenza strutturata che avviene da molti anni con regolarità, nella fattispecie è l'appuntamento numero 15. Queste conferenze vengono abbreviate COP, non perché questo arrivi da Copenaghen, ma perché vuol dire Conference of the Parties, cioè la conferenza delle parti che aderiscono al protocollo di Kyoto, o meglio alla Convenzione internazionale sui cambiamenti climatici che fu redatta nel 1992. La COP 15 è particolare perché è un momento di revisione delle attività che sono state finora attivate per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto che scade nel 2012. Perché è importante? Perché il protocollo di Kyoto è stato, possiamo dire, un grande esperimento che ha mostrato sia i punti deboli sia le opportunità della riduzione di emissioni di gas climalteranti. Ha messo anche in luce la difficoltà soprattutto di impegnare i paesi, sia quelli industrializzati sia quelli in via di sviluppo, in un progetto che abbia veramente un legame dal punto di vista anche amministrativo e giuridico vincolante. Professore, ci saranno novità rispetto agli altri anni? A Copenaghen c'è la grande novità della presenza del Presidente Obama, che rispetto a tutte le precedenti edizioni delle conferenze delle parti mancava, cioè gli Stati Uniti non avevano mai aderito al protocollo di Kyoto e quindi la presenza dell'America mancante era una spina nel fianco per tutti i negoziati climatici, perché chiaramente il paese più potente della Terra e il secondo paese inquinatore, oggi che la Cina l'ha di poco sopravanzato, mancando chiaramente tutto era più sfumato, tutto era più lento, più indeciso. Oggi l'attesa è da un lato quella che sarà la proposta degli Stati Uniti d'America col Presidente Obama, che di persona ha già annunciato che vuole impegnarsi sul problema climatico. È chiaro che deve risolvere il problema interno, ma questo è un cammino iniziato. Il secondo grande nodo che dovrà essere affrontato a Copenaghen è proprio il rapporto di finanziamento tra i paesi ricchi e i paesi poveri per aiutare lo sviluppo delle nuove tecnologie pulite ed evitare che quindi i paesi poveri da un lato possano crescere, non possono far crescere le loro condizioni di vita interne, ma dall'altro lo facciano con i migliori mezzi oggi disponibili dalla tecnologia, evitando di ripercorrere gli errori che sono già stati percorsi 100 anni prima dai paesi occidentali. Possiamo quindi dire che un incontro più politico che scientifico non ha nulla a che vedere con le analisi passate dell'IPCC? Ma certo, è un incontro sostanzialmente politico, perché gli incontri scientifici sono già stati fatti a monte. Gli incontri scientifici sono avvenuti in primo luogo già nel 2007 con la pubblicazione del quarto rapporto IPCC, il rapporto formale di base sulla quale ci sono gli aggiornamenti dei dati climatici. Ovvio che i dati del 2007 sono già vecchi rispetto a oggi e quindi sono stati fatti degli incontri supplementari nel corso di questi due anni e mezzo, e questi incontri supplementari hanno portato a una nuova acquisizione di dati che hanno aggiornato via via, ma senza cambiare la sostanza degli elementi già acquisiti dall'IPCC nel 2007, ma che servono ai decisori per fare delle loro scelte, speriamo, più efficaci. Senta, allora che cosa ci aspetta al massimo dell'aspettativa di questo convegno? Al massimo dell'aspettativa ci si aspetta un forte impegno degli Stati Uniti, così come non c'era stato fino ad oggi col protocollo di Kyoto, e ci si aspetta un meccanismo verificabile e vincolante di scambio di tecnologia e di denaro tra i paesi ricchi e i paesi poveri. Professor Mercalli, proprio recentemente qui in Italia abbiamo importato un dibattito che solo fino a qualche anno fa era proprio degli States. Nel 2005 uscì un grafico allegato a un paper sull'American Geophysical Union che correlava l'attività solare con i cambiamenti di temperatura. Quanto è vero e quanto è falso questo grafico e soprattutto quanto il Sole è in grado di modificare la temperatura sulla Terra? Il problema dell'attività solare, che influenza evidentemente anche il clima e lo ha sempre fatto nella storia passata, è sostanzialmente già stato affrontato dall'IPCC sia nel quarto rapporto sia con gli aggiornamenti successivi. Non è che l'attività solare non esista. L'IPCC ha già verificato che l'attività solare pesa nei confronti del cambiamento climatico attuale che stiamo leggendo nell'evoluzione dei dati recenti di una percentuale ridotta rispetto all'attività dei gas serra. Quindi non è che non c'è, ma se i gas serra pesano 90, l'evoluzione attuale dell'attività solare pesa 10. Quindi è ovvio che il problema maggiore da affrontare è quello della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, mentre sul Sole lo osserviamo, non ci si può fare niente tra l'altro, ma il peso del Sole è evidentemente di quasi un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello dei gas climalteranti. Senta professore, le faccio un'altra di quelle domande che in teoria non si dovrebbero mai fare. Visto che l'utenza domestica è responsabile solo del 20-30% rispetto al consumo globale di energia, le nostre azioni nel quotidiano possono davvero incidere nel risparmio energetico e nella non emissione di gas climalteranti? Possiamo incidere moltissimo, anche perché questa disaggregazione dei dati in realtà è fuorviante. Intanto le attività domestiche quotidiane, la gestione di una casa, di un'abitazione, pesa per il 30% sulle emissioni globali, quindi non è che sia particolarmente poco. L'altro 30% orientativamente arriva dai trasporti e quindi di nuovo siamo implicati personalmente, e l'altro 30% arriva dalla produzione industriale. Però se ci pensiamo, anche la produzione industriale non è che la dobbiamo vedere come un pianeta fuori da noi, c'è qualcuno che fa produzione industriale chissà perché. La produzione industriale alla fine sono gli oggetti che noi compriamo. Quando andiamo al supermercato vediamo il risultato finale della produzione industriale che arriva a casa nostra, quando acquistiamo un'autovettura, quando facciamo un viaggio, usiamo un aereo che è stato prodotto, tra virgolette, dall'industria. Quindi in realtà industria, trasporti e attività domestiche sono tutte guidate dalla nostra attività personale, individuale. Forse ci sono poche cose che sfuggono veramente a un controllo diretto, per esempio le spese militari. Su questo ciascuno di noi non vorrebbe neanche contribuire. In realtà sappiamo che anche le spese militari alla fine esistono per il controllo di certi bacini economici e produttivi e che quindi alla fine ritornano poi sui nostri gesti quotidiani quando consumiamo per esempio il petrolio, è frutto anche del controllo militare e di una certa spartizione geopolitica del mondo. Orbene, allora ognuno di noi sicuramente può fare molto. Direi la prima cosa, la prima parola ordine che darei, da cui poi deriva tutto il resto, è la guerra allo spreco, guerra totale allo spreco che oggi rappresenta, e qui veramente invece è una fetta importante, un altro 30% di tutto ciò che noi consumiamo non arriva a destinazione, cioè non è fatto per gli obiettivi che noi desideriamo, va perso. Va perso in inefficienze, va perso in tecnologie obsolete, quindi ognuno di noi può veramente cominciare dallo spreco e ne guadagna tra l'altro anche in bolletta, sono tutti soldi che non va a spendere per un uso pessimo dell'energia. Cominciare da casa, in auto, ma anche con gli oggetti che compriamo, quando per esempio producono molti rifiuti, hanno imballaggi, sono usa e getta e via di questo passo. Professore, siamo arrivati oramai alla parte finale della trasmissione, quindi le faccio l'ultima domanda. Quando arriverà il momento in cui potremo dire che siamo veramente tranquilli? Quindi quando saranno passate quelle cosiddette soglie di sicurezza? Quale sarà il dato fondamentale che ce lo farà dire? Le soglie di sicurezza in parte molti ricercatori ritengono che siano già state superate. La mia opinione è che più che aspettare che si spenga una certa luce rossa che ci dichiari fuori pericolo, dobbiamo fare di tutto per limitare la velocità con cui questi cambiamenti si producono e cercare via via di adattarci. Quindi ormai abbiamo messo in piedi un cambiamento nel sistema ambientale terrestre, che non è soltanto il cambiamento climatico, ma anche il cambiamento in generale nell'uso delle risorse, nell'inquinamento dell'aria, dei suoli, del mare. Quindi ci sono tutta una serie di cambiamenti che fanno sì che ormai c'è il concetto di irreversibilità, non possiamo più avere una terra come era prima, ne avremo una diversa. La scommessa è fare in modo che questi cambiamenti siano non catastrofici e sufficientemente lenti da permetterci di abituarci e di mettere in atto delle azioni di adattamento, così come l'uomo ha sempre fatto anche in passato. Professore, la ringrazio per aver partecipato a Cacciafotone, saluto i nostri radio ascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professor Mercalli. Grazie a voi.